si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati con Si può fare, il buongiorno di Radio 24 nel weekend. Daremo un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi ai nostri approfondimenti. Cominciamo subito anche a ricordarvi i nostri contatti. Se volete interagire in tempo reale con noi, l'account Twitter del programma è @ Si può fare 24, mio @ Ale Maurizi. Potete anche scriverci i vostri sms al 349-238-6666. Siamo anche su Facebook, Si può fare _ Radio 24, ma andiamo ad iniziare. And now the good news. E come ogni mattina cerchiamo una buona notizia, uno spiraglio di luce tra le tante cattive notizie della settimana, e questa volta è un personaggio, il primo chef stellato Michelin per un ristorante tutto biologico. È un italiano, si chiama Paolo Sari, il ristorante si trova però nel Principato di Monte Carlo, si chiama Elsa, sarà il primo ristorante biologico al mondo a poter vantare una stella Michelin. Il prestigioso riconoscimento è stato attribuito dalla nuova guida in uscita mercoledì. La notizia è rimbalzata in queste ore nel Principato di Monaco, ha fatto esaltare di gioia Paolo Sari, lo chef italiano che dirige le cucine di questo rinomato locale. Complimenti a lui, insomma, evidentemente la buona cucina nel mondo è ancora made in Italy. Allora andiamo invece ad iniziare a dare un'occhiata alle prime pagine dei giornali e vediamo di che cosa si occupano. Molti quotidiani si occupano e titolano anche su quello che accade in Ucraina con il nuovo governo ucraino, ma i venti di guerra, così scrivono molti giornali, in Crimea, la penisola dell'Ucraina filorussa, dove già 2000 militari russi sono entrati in azione. E speriamo che non si vada oltre. Qualcuno già prefigura un futuro sviluppo georgiano della situazione. Poi si parla naturalmente anche del completamento della squadra di governo, nominati viceministri e sottosegretari da parte di Matteo Renzi, ma anche le novità per quanto riguarda la tassa sulla casa. Si è chiuso ieri il lunghissimo capitolo che riguardava la TASI. Andiamo con ordine, cominciamo dal Corriere e dicevamo la Crimea, le mani della Russia sulla Crimea. Kiev dice ci invadono, Obama ha puntualizzato è una grave ingerenza, ci saranno delle conseguenze qualora non si sa, qualora questo invasione russa, diciamo, dovesse proseguire. Tutto ancora molto all'inizio anche sul fronte diplomatico, però la situazione non è chiara. Certo che la Russia non esce bene da questo. Dopo le Olimpiadi invernali di Sochi, la grossa polemica sul trattamento che viene riservato agli omosessuali, che ha fatto scandalizzare tutto il mondo, adesso questa pesante ingerenza sull'Ucraina. La foto è un agente di Berkut, le forze speciali protagoniste della sanguinosa repressione a Kiev, che controlla un posto di blocco sulla strada che collega la penisola della Crimea con l'Ucraina, cioè una vera e propria militarizzazione. Ma, dicevamo, sottosegretari per il governo Renzi diventano un caso. È possibile alzare le tasse sulla casa, ma è giallo sui beni della Chiesa. Vedremo anche questo aspetto del Consiglio dei Ministri di ieri. Sono 35 i sottosegretari più 9 i viceministri, solo il 20% solo donne. Da Ferri a Gentile le scelte di Renzi e i malumori. Un'altra buona notizia ce la dà Gian Antonio Stella, sempre sulla prima pagina del Corriere. Leggiamola subito. I ragazzi siciliani che vincono a New York, da un paese, questa è veramente bella, di 5.000 abitanti, un software per i taxi americani. Leggiamo. Cosa c'entra New York con Mirabella Imbeccari alle pendici dei Monti Erei, nel profondo della Sicilia più profonda? C'entra. I taxi dell'immensa metropoli americana viaggiano in buona parte con un programma di gestione ideato nello sperduto paese isolano, dove tra fichi d'India e mandorli in fiore un manipolo di ragazzi fornisce a mezzo mondo software d'eccellenza. Ed è bello che questo software per la gestione dei taxi a New York che viene creato da questi ragazzi siciliani proprio nelle settimane nelle quali un altro software e un altro servizio, Uber, fa infuriare, questo di Google però, fa infuriare i tassisti di mezze capitali europee, tra cui Milano e Parigi. Ma torniamo per un momento, intanto vediamo i numeri dei sottosegretari e dei viceministri del governo Renzi rispetto agli altri governi. Si era detto un governo snello, complessivamente sono 62 tra ministri e viceministri e sottosegretari i membri del governo. Quanti erano quelli del governo Letta? 63, quindi siamo sullo stesso livello. Quanti erano quelli del governo vituperato governo Monti? 47, molti di meno, molte spese di meno. Quanti erano quelli, andavamo ancora più indietro, del governo, l'ultimo governo Berlusconi, quello che poi fu la cui strada fu interrotta proprio dall'approdo di Monti? Erano 60, sempre meno di quelli di Renzi. Per tornare a cifre maggiori bisogna risalire al mostruoso, monumentale governo Prodi, 102 del 2006, ma anche il governo Berlusconi che lo aveva preceduto era arrivato a quota 97. Quindi insomma il governo Renzi a 63, siamo comunque su cifre complessivamente più basse. Alcuni giornali scrivono che Renzi starebbe meditando un taglio degli stipendi dei parlamentari in vista delle europee di 2.000 euro. Poi ricordiamoci sempre che queste cose deve votare il Parlamento e lì sono guai per Renzi, ma anche per noi. Repubblica si occupa anche del Job Act. Ecco il piano: aumenti per la Tasi, caos sui beni della Chiesa. Vedremo anche questo aspetto sul Sole 24 Ore tra un attimo. A proposito del Job Act, cosa scrive il quotidiano La Repubblica? Il cuore del Job Act di Renzi è già sul tavolo del ministro del lavoro, si chiama Naspi, un sussidio di disoccupazione universale destinato a tutti coloro che perdono il posto, tutti, compreso i meno protetti tra i precari, cioè i collaboratori a progetto, oggi fuori da quasi tutti i sostegni. Il piano, elaborato dal politologo Stefano Sacchi e fatto proprio prima dalla segreteria del PD, poi diventato base di discussione per tutto il governo, costerà 1,6 miliardi in più di quanto oggi si spende per i sussidi, dunque complessivamente 8,8 miliardi di euro, meno di quanto si era prospettato, ma assicurerà appunto la protezione anche a quel 1.200.000 lavoratori ora senza alcuna rete in caso di disoccupazione. Potrebbe essere finanziato questo piano con uno spostamento di risorse dalla cassa integrazione in deroga, che vale da solo 3 miliardi di euro. Una intervista anche al ministro del lavoro, neo ministro del lavoro Poletti, che dice: lei viene dal mondo delle imprese e sa bene che non sono le norme a creare il lavoro, vero? E lui dice: è vero, sono le imprese a creare lavoro, ma serve pure un contesto favorevole, ci vogliono buoni imprenditori. E penso anche, dice Poletti, che gli utili reinvestiti nelle aziende in innovazione del processo e del prodotto vadano accompagnati dal pubblico, il che vuole dire sgravi, giusto? Giusto. Cioè, il titolo è: sgravi per chi reinveste gli utili. Questo sarebbe una delle promesse del ministro Poletti che si accompagnano a questa riforma, diciamo, del mercato del lavoro, che poi dovrebbe anche semplificare le figure contrattuali, la giungla dei contratti, che oggi ne prevede 40. Si scenderebbe a un contratto unico con a tempo indeterminato, con tutele crescenti per i tanti, troppi giovani che oggi sono a spasso. Ma dicevamo, si è chiuso il capitolo della tassa sulla casa con il giallo sulle esenzioni per la Chiesa. Parliamo della Tasi, ne parliamo tra poco. Adesso facciamo una breve pausa, poi la rassegna stampa europea, giornale radio, torniamo subito dopo le 8. La mia agevolazione per l'Italia consiste in questo: se proprio dobbiamo far pagare l'IMU a tutti, facciamola pagare proprio a tutti e la paghiamo a metro quadro, perché le rendite catastali non sono attendibili. Quindi, per dire, su 100 metri quadri paghiamo 50 euro, su 200 metri quadri paghiamo 100 euro e via così. Chi ha le case più grandi paga di più, chi ha la casa più piccola paga di meno e tutti pagano. E poi soprattutto togliere tutte le agevolazioni, ci sono 1.000 agevolazioni sparse in tutta l'Italia che creano solo confusione, burocrazia e costi aggiuntivi per la burocrazia. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi, ben ritrovati, ho ancora un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi i nostri approfondimenti. Vi ricordo i contatti, se volete interagire in tempo reale con noi, l'account Twitter del programma è @ si può fare 24, il mio @ Ale Maurizi, siamo anche su Facebook, si può fare _ radio 24, 349-238-6666 se volete scriverci un sms, e anche se volete intervenire in diretta 800 24 0024, come tutti i sabati e le domeniche mattina potete commentare quello che sentite, potete raccontarci le vostre buone notizie, che cosa ha reso più bella la vostra settimana. E anche questa settimana mettiamo in palio dei premi, questa settimana i biglietti per andare a vedere al cinema il film Un ragionevole dubbio, in uscita il 6 di marzo nei nostri cinema. E allora riprendiamo dalle prime pagine dei giornali. Vi abbiamo lasciato prima dell'interruzione con la rassegna stampa europea e il giornale radio, annunciando che si è chiuso il lungo capitolo della TASI. Ecco la nuova tassa sulla casa, scrive il Sole 24 Ore. E via libera dal Consiglio dei Ministri alla possibilità per i comuni di aumentare la TASI fino allo 0,8 per mille. Ciascun comune deciderà se innalzare l'aliquota del nuovo tributo sui servizi indivisibili, con l'obbligo però di destinare il gettito a detrazioni per la prima casa, capaci di produrre lo stesso effetto degli sgravi IMU. Rischio rincari per negozi e imprese, dal pagamento della TASI sono invece esentati i terreni agricoli e 25 immobili della Chiesa di Roma. Vediamo meglio di che cosa si tratta. Come scrive il Sole 24 Ore, la partita della TASI può dirsi ufficialmente chiusa, a oltre 50 giorni di distanza dalla nota che annunciava una correzione imminente per il nuovo tributo. Per effetto del decreto omnibus approvato dal Consiglio dei Ministri di ieri, i municipi potranno aumentare dello 0,8 per mille le aliquote TASI, purché destinino il gettito a un sistema di detrazioni capace di produrre lo stesso effetto, l'abbiamo già letto, degli sgravi IMU sulla prima casa. In cambio riceveranno un obolo una tantum di 625 milioni. Quindi, insomma, questo aumento fiscale dovrebbe però servire a fare detrazioni sulla prima casa, quindi diciamo a favore dei proprietari di prima casa, quindi a sfavore invece di tutti quegli altri. La new entry più rilevante, scrive il Sole 24 Ore, rispetto alle modifiche diciamo che erano circolate nelle ultime settimane, riguarda l'esenzione dal pagamento del tributo sui servizi indivisibili, di cui potranno beneficiare i terreni agricoli e soprattutto gli edifici concordatari della Chiesa, un pacchetto di circa 25 immobili destinati al culto ubicati a Roma, come ha scritto ieri il Consiglio dei Ministri, che sono esclusi dalla tassazione perché dotati del carattere di extraterritorialità. Quindi esenti terreni agricoli e 25 immobili della Chiesa, tutti gli altri pagano, con la possibilità di un aumento fino allo 0,8 per mille destinato però agli sgravi sulla prima casa. Questo è il quadro TASI che fa molto correttamente il Sole 24 Ore, che però poi in prima pagina riporta un commento di Luigi Zingales: la governance delle aziende di Stato, così il merito può guidare le nomine pubbliche. Scrive Zingales: il governo Renzi è alla prova del fuoco, deve dimostrare che le speranze nel giovane primo ministro sono ben riposte. Uno dei pochi campi in cui il potere del governo è assoluto e immediato è quello delle nomine. Nei prossimi mesi ci sono più di 400 nomine da effettuare, dall'amministratore delegato dell'ENI al commissario Consub scaduto già a dicembre. Zingales, con lui il Sole 24 Ore, ma con lui credo tutte le menti lucide di questo paese, si aspettano che ci siano nomine basate sul merito, perché 400 aziende pubbliche, o insomma dove la nomina delle dirigenze spetta al governo, sono tante, e qui si può fare la differenza. Un appello sentito forse già tante volte in passato, speriamo che non cada nel vuoto assolutamente. Dunque, dicevamo della TASI. Così scrive il Sole 24 Ore, così scrive invece il giornale. Renzi o non Renzi, è sempre tassa. Ma che rinnovamento, aumenta subito la Tasi, Berlusconi, così il Premier non va lontano. E su Roma piovono 570 milioni, un regalo al sindaco Marino. Adesso vedremo come se ne occuperà, come se ne occupa anche il Messaggero, il quotidiano della capitale. Intanto però il giornale segue anche la vicenda delle nomine dei sottosegretari e dei viceministri. In prima pagina si legge: ha censurato un giornale e lo fanno sottosegretario l'alfaniano Tonino Gentile, nuovi guai per il nuovo centrodestra, anche Lupi indagato. Andiamo a leggere cosa scrive il giornale, cosa si tratta. Intanto l'indagine che riguarda il ministro Lupi, indagato in Sardegna, fece nomine irregolari. Nuova indagine per il ministro Lupi in Sardegna, un atto dovuto, fanno sapere dalla procura di Tempio Pausania, che segue da prassi la denuncia depositata da un consigliere comunale del PD, ma è una grana per il nuovo centrodestra, il principale alleato di Renzi. Il reato che si ipotizza per il titolare delle infrastrutture e trasporti è quello già contestato lì poche settimane fa dai magistrati di Cagliari per una vicenda analoga, abuso ufficio. Anche stavolta la nomina decisa da Lupi non sarebbe compatibile coi requisiti previsti dalla legge. Si parla del commissario straordinario dell'autorità portuale del Nord Sardegna. La grana che invece riguarda le nomine dei sottosegretari è quella dell'alfaniano Gentile. Angelino Alfano, scrive così il giornale, Angelino Alfano ha trattato sulla destinazione, ma non ha ceduto sulla poltrona e alla fine ha vinto il braccio di ferro con Renzi, che da quando è a Palazzo Chigi non rottama più e che da oggi avrà nella squadra di governo anche Tonino Gentile, senatore e coordinatore del nuovo centrodestra in Calabria, noto alle cronache come l'uomo che 10 giorni fa, per evitare la pubblicazione sul quotidiano L'Ora di un articolo sul coinvolgimento del figlio Andrea nell'inchiesta sulle consulenze d'oro elargite dall'ASL di Cosenza, attraverso un intermediario avrebbe fatto pressioni sull'editore e il direttore del giornale per non andare in edicola. Ha censurato un giornale e lo fanno sottosegretario, così scrive il giornale. Di questa vicenda si occupa anche Repubblica, che riporta più o meno la stessa notizia. Avrebbe bloccato la stampa del giornale nella notte tra il 18 e il 19 febbraio per censurare la notizia dell'iscrizione sul registro degli indagati del figlio. Così però è stato nominato sottosegretario. Gli altri casi scottanti che riguardano le nomine di ieri sarebbero, secondo Repubblica, la nomina di Cosimo Ferri e di Umberto Del Basso De Caro. Per quanto riguarda Cosimo Ferri, è stato confermato come sottosegretario alla giustizia. Qual è il problema? Qual è la pietra dello scandalo? È che è un posto che aveva già nel governo Letta, su indicazione di Berlusconi, che allora faceva parte della maggioranza. I boatos di Palazzo vogliono che Ferri sia un magistrato, ex magistrato, vicino a Verdini. La sua permanenza al governo ha fatto infuriare il neo ministro della giustizia Orlando, che durante il Consiglio dei Ministri ha posto apertamente il caso. Poi Graziano Del Rio è intervenuto, ha stoppato tutto, ricordando che Ferri è considerato un tecnico, e allora Orlando si sarebbe placato. E va bene, quindi diciamo un sottosegretario non sgradito, anzi forse addirittura di nomina indiretta da parte di Berlusconi, che però non è nella maggioranza. Poi c'è il caso di Del Basso, il grande accusatore di Nunzia De Girolamo nello scandalo delle ASL di Benevento, che ha portato alle dimissioni dell'allora ministro di Letta. Non a caso la sua nomina è stata osteggiata dal nuovo centrodestra, che ha fatto anche notare come il suo nome sia comparso tra quelli della Rimborsopoli campana. Altro sottosegretario, diciamo, un po' scottante per il governo Renzi. Ma dicevamo, il Salva Roma, ecco la stretta, così scrive il Messaggero. Intanto Renzi dice: Ignazio ha sbagliato modi e toni, deve capire che le cose sono cambiate. Ieri alla riunione dei parlamentari romani con il sottosegretario Del Rio si è fatto notare che Marino non ha chiamato nessuno, ha agito da solo, ha minacciato di bloccare la capitale, tutte cose che non sono piaciute a Renzi, che insomma le avrebbe fatto presente in privato che così non si va da nessuna parte. Il Salva Roma, che prevede 570 milioni di euro per la capitale, è stato approvato appunto ieri dal Consiglio dei Ministri, prevede però anche criteri, una cura diciamo dimagrante e soprattutto un piano di rientro per la capitale che prevede vincoli sulle nuove assunzioni, così scrive il Messaggero. Prevede una ricognizione su possibili esuberi nelle aziende di proprietà dell'amministrazione romana e anche che si valuti la possibilità di dismettere, cedere delle partecipazioni in attività che non hanno direttamente un fine di servizio pubblico. Cioè, insomma, l'amministrazione romana deve dimagrire, non si può continuare a finanziare Roma così. Certo, Marino ha sbagliato i toni con cui, fra l'altro, dai microfoni di Radio 24 ha minacciato di blocco la città, sono un po' da irresponsabile, però devo dire che anche sentire ieri l'ex sindaco Alemanno dire candidamente il buco non c'è, io non ho lasciato nessun buco, ho lasciato debiti per 100 milioni, il buco l'ha creato Marino di 800 milioni, francamente non si può sentire, cioè si vedeva proprio il naso di Alemanno che si allungava, Alemanno Pinocchio, perché sappiamo tutti che Roma, in virtù della sua funzione strategica, ha potuto contare su finanziamenti pubblici da sempre, dalla notte dei tempi, però sentirsi dire da un ex sindaco che lui ha lasciato i conti in regola, quando invece è chiaro che non è così, fa veramente pena, ecco, diciamolo, fa pena Alemanno, fa pena anche Marino che minaccia di bloccare tutto. Tutti si devono impegnare a cambiare questa situazione, assumendosi ognuno il suo pezzettino di responsabilità. Voglio chiudere questa parte di rassegna stampa leggendo un pezzo del reportage di Domenico Quirico, già sequestrato per settimane in Siria, sulla Stampa, che scrive da Simferopoli, la capitale della Crimea. Corri, i russi sono all'aeroporto. Quando suona il telefono e un amico ucraino mi avverte, l'alba si è appena levata su Simferopoli, questo terribile minuzzolo di capitale. Poi eccoli i soldati in mimetiche verdi, zainetti leggeri da combattimento, le canne dei mitra rivolte verso il basso, pattugliano placidamente il piazzale, il parcheggio degli autobus, vanno e vengono affaccendati dal ristorante scelto come posto di comando, non bloccano nessuno, non hanno chiuso porte e scale, non minacciano, sono silenziosi, corretti e tranquilli, così i militari russi, secondo Quirico. Poi dice, i miliziani delle forze di autodifesa dei russi di Crimea, che li affiancano come per un servizio d'ordine, quelli sì sono più agitati, non si nascondono, al braccio hanno il fiocco con i colori arancione e nero, l'ordine di San Giorgio, una sorta di croce di ferro dell'antica Russia. Insomma, secondo Quirico, a preoccupare sono più le forze paramilitari filorusse interne alla Crimea che non i soldati russi. Però, insomma, anche questa invasione di campo non tranquillizza nessuno. Poi una nota importante che riguarda l'ex presidente Yanukovych. In TV scorre il faccione un po' stralunato di Yanukovych, il ricercato per 82 omicidi avvolto in bandiere ucraine. In diretta da Rostov in Russia, chiede scusa per essere fuggito, dice che tornerà se ci sono le condizioni di sicurezza, perché il presidente è sempre lui. Ma nessuno lo guarda in Crimea. Quello che dice quel tipo non ci interessa, è fuori tempo massimo. Quindi se i russi, scrive Quirico, coltivano l'idea di usarlo e di farlo ritornare come presidente, fanno calcoli sbagliati, perché in Crimea, per esempio, la regione filorussa dell'Ucraina, non gliene frega nulla di Yanukovych, gli interessa un futuro diverso probabilmente. 800 24 00 24, facciamo una breve pausa, torniamo tra un attimo, vi chiediamo di intervenire per raccontarci che cosa ha reso più bella la vostra settimana. Vi ricordo che in palio ci sono i biglietti per il film in uscita al cinema Un ragionevole dubbio. A tra poco. Si può fare cronache da un paese migliore. Com'è bella la città, com'è grande la città, com'è viva la città, com'è allegra la città, piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre più alti e tante macchine sempre di più. Com'è bella la città, com'è bella la città, cantava Gaber tanti tanti tanti anni fa, con tante luci colorate, quelle dei negozi, delle le attività commerciali. Dai commercianti catanesi arriva un appello, una proposta, visto che il paese per rilanciare la crescita deve fare appello a tutte le risorse, davvero tutte. Una di queste risorse sono gli immobili degradati, gli immobili abbandonati che possono essere riutilizzati, riciclati, recuperati, espropriati. A questo arriva la proposta, una volta forse sarebbe arrivata dai centri sociali, dagli squatter, adesso arriva dai commercianti catanesi. Ne parliamo con il vice direttore di Confcommercio Catania, Francesco Sorbello. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi e agli ascoltatori. Allora, intanto voi avete fatto questa proposta in un vertice col comune qualche giorno fa, in cui si parlava proprio di rilancio della città, ma anche di urbanistica, di come pensare il futuro delle città. Noi sappiamo che nelle nostre città è pieno di immobili pubblici e privati abbandonati. Voi dite è uno spreco che non può più essere consentito. Perché? Ma guardi, nell'ambito della revisione del regolamento edilizio che il Comune di Catania sta portando avanti, è un regolamento che risale agli anni 30 peraltro, abbiamo posto il problema di fronteggiare il preoccupante fenomeno degli immobili abbandonati nel contesto urbano, ma soprattutto nel centro storico. Noi abbiamo rilevato che ci sono interi quartieri, ne cito uno su tutti, il vecchio San Berillo, che si iniziò a spopolare subito dopo il dopoguerra, che è in uno stato di completo abbandono. Sì. Con problemi di insicurezza e quindi di pericolo per la incolumità pubblica, ma anche con problematiche inerenti al decoro della città e quindi del contesto urbano. Qualcosa bisogna farlo, non possiamo lasciare per oltre mezzo secolo questi immobili e questi quartieri abbandonati. È un problema, io dico, non solo di Catania, ma è abbastanza diffuso in tutto il paese. È un problema sicuramente italiano, nei centri storici. Certo. E qui il tutto deriva e dipende dall'inerzia dei proprietari. Spesso abbiamo anche un frazionamento della proprietà, sì, dello stesso immobile in più individui che hanno completamente abbandonato questi immobili. Ora noi partiamo da un presupposto: il privato, il proprietario deve considerare un obbligo, non può considerare un optional, una variabile indipendente, il dovere mantenere l'immobile di proprietà in uno stato non solo di sicurezza ma anche di decoro. Ecco, ma si può arrivare, scusi, sì, Sorbello, si può arrivare anche a immaginare disincentivi e incentivi al contrario? Cioè, faccio l'esempio, abbiamo appena parlato della TASI, che ieri il governo ha chiuso il capitolo della TASI, cioè chi ha un immobile abbandonato dovrebbe pagare di più forse di tassazione, perché è una cosa che grava sulla collettività in maniera sbagliata? È un'ipotesi? Ma sono sicuramente convinto che questo debba succedere, ma ho una preoccupazione. Secondo me chi abbandona gli immobili non paga neanche non paga niente. Pagare. Se per cui voi arrivate alla proposta dell'esproprio, Sorbello, cioè voi dite a un certo punto facciamola finita, se qui nessuno si muove. Ma se nessuno si muove, il comune deve avviare un intervento coattivo, cioè deve diffidare i proprietari dando un congruo tempo di 90-180 giorni affinché presenti un progetto preliminare di intervento di recupero. Se il proprietario resta inerte rispetto a questa diffida del comune, allora a quel punto il comune dovrebbe attribuire a questi beni una destinazione pubblica di interesse pubblico generale e così poter avviare le procedure di esproprio. Ecco, magari fatela una proposta, che ne so, di legge, di decreto da girare al governo e al Parlamento. Può darsi che, visto che si sta rilanciando tutti gli sforzi per la crescita, qualcuno vi stia a sentire. Ci dica però una cosa, Sorbello, sì, quanto incide la sede per un'attività commerciale, economica, come un negozio, un piccolo artigiano? Cioè, chiariamo questo aspetto, recuperare questi immobili potrebbe consentire un risparmio di che ordine per un'attività commerciale? Ma guardi, il risparmio non è solo per un'attività commerciale, io direi che è per il contesto urbano, per tutti quelli che vivono nelle aree, i centri storici. Però insomma anche per avviare un'attività, se uno può contare già sulla sede, è un bel vantaggio, no? Guardi, guardi, se uno può contare sulla sede, considerando un affitto non meno di 350-400 euro a metro quadrato su base annua, cioè un negozio di 100 metri sarebbero circa 40.000 euro l'anno di affitto risparmiato. Capite che questo potrebbe essere un forte incentivo, cioè si metterebbero insieme due cose: immobili abbandonati di cui non frega più niente a nessuno evidentemente, né ai proprietari né a, eventualmente anche a, se sono pubblici, a chi dovrebbe spendere per mantenerli. Invece si farebbe un favore enorme a chi ha idee, voglia, tempo, energie per cominciare, ma magari può abbattere questo costo iniziale della sede. Sorbello, congratulazioni, fatela questa proposta. Sì. Una bozza di regolamento per l'acquisizione a patrimonio comunale di questi immobili abbandonati, mettendo anche una proposta che è quella della riassegnazione, quindi un sistema di riassegnazione a terzi, e quindi le modalità di assegnazione sulla base di un punteggio. Ad esempio, le giovani coppie che vogliono vivere nel centro, quindi vivere in centro, ecco, potrebbero essere interessati al recupero ai fini residenziali di questi immobili. Fateci sapere, Sorbello, fateci sapere se il comune vi dà retta, se riuscite a concretizzare una proposta anche al governo. Noi saremo qua per seguirla questa vicenda. Grazie e complimenti. Non so se avrà questo coraggio nel recepire questo tipo di proposta, che è una proposta molto forte. Vedremo, in bocca al lupo. Grazie. Una iniziativa di recupero viene concreta da Milano. Sentiamo. Le nostre città sono piene di immobili abbandonati e ci sono tante associazioni culturali o di volontariato, o anche tante imprese che hanno bisogno di un tetto. Riuscire a mettere insieme queste due cose vuol dire dare una risposta vincente alla crisi. A Milano, dal recupero di uno di questi immobili, nasce la Casa del Volontariato grazie a CSV e al Comune, come ci spiega Marco Pietripaoli, direttore CSV. Da questa mattina fino alle ore 18 in via Melchiorre Gioia a Milano, all'angolo con via Montegrappa, vi sono quattro street artist che con alcune decine di giovani milanesi hanno iniziato a creare un grande disegno, un grande murales di circa 20 metri di lunghezza sulla facciata di un edificio che è lì all'angolo, all'inizio di via Melchiorre Gioia, che presto diventerà la Casa del Volontariato di Milano. Questo è un immobile di inizio 800 di proprietà del Comune di Milano che ha assegnato a CSV. CSV è il centro per i servizi per il volontariato nel territorio milanese, che trasformerà questo edificio che oggi è chiuso, cadente, lo restituirà alla città ristrutturato per farne la Casa del Volontariato. Dentro in questo edificio ci sarà la sede dell'Università del Volontariato, delle sale per incontri, mostre, esposizioni, sedi per le associazioni stesse, un ostello per i giovani che vorranno fare l'esperienza del servizio volontario europeo e quindi verranno dall'estero a Milano a vivere l'esperienza di volontariato, spazi per giovani, una caffetteria, insomma un sacco di opportunità e di spazi per far crescere il mondo del volontariato milanese. Gli abbiamo dato un nome a questa casa, si chiamerà Voce, Volontari al Centro. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cari ascoltatori, buongiorno e benvenuto a Carlo Gabardini. Buongiorno ciao, a tutti. Carlo, ormai adottato da Radio 24 e accoliti. Giustamente. Sei stato una trasmissione televisiva, permetteteci questa citazione autoreferenziale, la trasmissione televisiva di Alessandro Milan. Funamboli, e mi sono divertito moltissimo. È stato il mio primo dibattito televisivo, a parlare di omofobia, del mio video Marmellata e Nutella, del coming out. scout dalla Bignardi, ma lanciato da noi soprattutto. Ma assolutamente, anche perché il video, come ben sappiamo, è nato qui, è nato perché qua. Quelli delle cose cambiano hanno chiamato qui e mi hanno giustamente e per fortuna incastrato, quindi poi è nato il video Marmellata e Nutella e adesso mi sto occupando moltissimo di questa cosa, anche perché domenica scorsa sono uscito da qui e dopo la trasmissione sono andato a Bergamo dai Lions Bergamo perché volevano fare un video contro l'omofobia, volevano una mano e diciamo mi sono ritrovato vestito completamente da giocatore di football americano con una squadra che mi placcava cercando di, a un certo punto ho pensato che fosse una punizione in realtà, più che fosse un trappolone più che un video. Volevano legnarti. Esattamente, è stato molto divertente. Perché lo sport è sempre al centro di queste questioni, sì, cioè assolutamente. Nel senso, è un veicolo importante per È importante intanto perché nello sport è il luogo diciamo dove è più difficile per gli sportivi fare coming out, perché c'è comunque un'attenzione dei tifosi, c'è un po' questa falso mito per cui se uno è gay, esattamente, infatti abbiamo visto il calciatore che poco fa ha fatto coming out, però l'ha fatto a fine carriera e quindi infatti anche durante quella trasmissione è stato lanciato questa campagna che prevede che tutti gli sportivi si mettano i lacci arcobaleno e scendano in campo con questi lacci arcobaleno e è una notizia che in realtà poi è da più giorni che va avanti questa campagna, tanto che abbiamo visto tutti, e entro direttamente nella mia prima notizia, abbiamo visto il calciatore De Sena del Cagliari che ha indossato i laccetti contro l'omofobia ed è stato pesantemente insultato su Twitter, su Facebook, gli hanno dato del che frocio, cretino, gli hanno cretino. Dato. Lui è stato molto bravo in realtà perché aveva rilasciato un'intervista in cui diceva: il fatto che un calciatore come qualsiasi altra persona possa manifestare pubblicamente un orientamento sessuale differente dal mio non rappresenta alcun problema né fastidio. Dovremmo cominciare a cambiare radicalmente la nostra mentalità, realmente, non solo a parole. Lui ha un figlio, ha una compagna, non è omosessuale. Però difende questa causa. Dopo gli bravo insulti, Sena, esatto, Sena, veramente complimenti. E anche dopo è stato molto bravo perché ha risposto: siete degli stupidi ignoranti, pensate al vostro lavoro e non al mio. Perché gli dicevano: pensa a giocare a calcio e non a queste cose. Mi sembra che abbia fatto un grandissimo gesto. E lo ringraziamo per questo. Poi un'altra notizia che mi ha fatto sorridere è stata questa pubblicità che probabilmente hanno visto in tanti, di una famosa birra che titolava con caratteri giganti: una birra gratis a tutti quelli che hanno votato Renzi. Che detto così sembrava quasi un endorsement, quasi come per dire: noi stiamo dalla parte di Renzi, brindiamo tutti insieme. Perché invece era molto divertente perché c'era un piccolo asterischino e sotto in piccolino c'era scritto: si intendono le elezioni politiche italiane del 24-25 febbraio 2013 alle quali Matteo Renzi non era candidato, pertanto la presente offerta non ha nessun valore. Mi ha fatto molto ridere perché un po' in realtà sembra un endorsement, poi in realtà direi che è un perculamento, se si può dire, e in realtà in qualche modo sottolinea anche l'anomalia del fatto che Renzi non sia stato votato da nessuno, se non dalle primarie, che ovviamente sono una questione interna, quindi non può certo essere quello un cammino, diciamo, per diventare Presidente del Consiglio. Poi se vogliamo ci possiamo anche interrogare sul fatto se è possibile che una birra per i suoi spot ormai possa addirittura prendere in giro il nostro Presidente del Consiglio, dire: nessuno ti ha votato, oppure ti hanno votato. Vorrei sapere se lo facessero con la Merkel che cosa succederebbe. È una linea inaugurata, forse, non so se sono stati i primi, da Ryanair, che ha cominciato già da tempo a fare pubblicità riferendosi alle notizie, sì, vero, vero, del momento. Evidentemente funziona e quindi stanno sfruttando un po' anche ma altri. Ma poi sicuramente funziona molto nel nostro paese, dove in realtà di politica si parla tantissimo, perché se ci pensiamo il palinsesto televisivo è una cosa incredibile. Credo che non ci c'è, forse c'è uno spazietto libero il mercoledì, perché siamo ancora rimasti che mercoledì dovrebbero esserci le partite di Coppa, che anche quelle ormai sono spalmate più su tutti i giorni. E poi ho una notizia che è più per te, Alessio, diciamo. Ho visto che c'è un boom di richieste per possedere un maialino da tenere in casa. Perché per me questa notizia? No, perché siccome mi parlavi spesso, perché questa cosa è ovviamente complice Peppa Pig, il cartone animato, certo, del quale, perché Alessio ed io quando ci vediamo qua intorno alle 6 del mattino, dalle 6 alle 6 e mezza parliamo di Peppa Pig, sì, ovviamente, che è la notizia più sul sono pezzo io del momento. Gli ultimi episodi che ho visto, esattamente, con mia figlia, perché Alessio, appunto, perché penso che ti possa interessare. Hai una figlia, infatti... io non ho figli, quindi non ancora ho figli, ma ne avrò. nonostante Luca Cascioli, che era il giornalista alla trasmissione Funamboli di Alessandro Milan, diceva che l'omofobia in questo paese non esiste, quindi io gli dicevo, beh, allora posso avere dei figli, e lui ha vacillato, diciamo, su questa... Ma richiesta. Questo è un altro capitolo. E comunque niente, il maiale è un animale che in realtà ci ricorda questo articolo, che è un animale che a volte può aggredire, e il veterinario Andrea Rettagliati ricorda che bisogna stare molto attenti ai morsi e soprattutto bisogna vaccinare questi maiali. Per il resto non ci sono controindicazioni al fatto di tenere un maiale in famiglia. Poi si sprecano le battute, credo, nel senso che un porco in famiglia è un porco in famiglia, diciamo. Chi non ha un porco in famiglia, esattamente. Ma ho letto anch'io qualcosa sul fatto che sono animali comunque puliti, contrariamente a quello che si... Esatto, però in Italia non l'avevo ancora sentito, perché in realtà Paris Hilton, se non ricordo male, George Clooney hanno un loro maiale. Certo, forse hanno anche delle economie in cui è più semplice, perché io mi immagino, se stai in un bilocale con due figli, ci manca anche il maiale. Vorrei dire perché in passato si allevavano nelle case i maiali, insomma, perché non era proprio per divertimento. No, esatto, una questo... brutta fine. Che è la parte più conica, cioè, che un paese talmente in crisi che secondo me sarebbe meglio, visto che si dice che i cinesi mangiano i cani, se iniziamo tutti ad avere invece dei maiali sarebbe ottimo, perché uno prende gli animali domestici e ci fa dei panini. Andiamo con gli ascoltatori, cominciamo con Danilo che ci chiama da Verona. Buongiorno. Prego. Niente, io devo parlare della mia esperienza che ho fatto questa settimana in una montagna qua della mia zona. Sì. Niente, sono andato su, io pratico lo sci alpinismo, la montagna si chiama il Balzo, e poi ho fatto una discesa un po' diversa da quella che faccio di solito, e ho tagliato un po' verso da un'altra parte. E a un certo punto c'era una specie di crinale, dove si vede il lago di Garda come sul sfondo. E da questo crinale non si vedeva la parte sotto della vegetazione, ma si vedeva solo il lago, no? E io ho avuto una sensazione come essere, un anno fa sono stato in Norvegia, essere su un fiordo e sciare verso il mare, insomma, è stata una sensazione. Cioè la meraviglia del paesaggio, la sconvolta, sembrava di essere vicini al mare, invece era in montagna, cioè nel senso, abbiamo capito. Quindi è una buona notizia, cioè, dal tono pensavo che fosse una storia tragica, non osavo interromperlo, ho detto, oddio, adesso chissà che cosa succede lassù in montagna o sul fiordo. Invece è una buona notizia, Danilo. Sì, solitudine e la natura, questa è stata una cosa che non avevo mai, siccome lo solco molto spesso il Baldo, quella è una cosa che non ho mai notato, mai visto. Va bene, Danilo, grazie. Grazie mille. Si candida, giusto? La prima telefonata, si candida. Perché noi raccogliamo le buone notizie, che ha reso bello la vostra settimana, chiamateci. E oggi si vincono i biglietti per il film Un ragionevole dubbio, in uscita il 6 marzo. Due coppie, o anche tre. Usciti dalla mostra di Munch, giusto? Sì. E siamo entrati nel cinema. Poi ci saranno altri premi, ogni settimana cambiamo, così un po' di sorpresa non guasta. Allora, tra poco riprendiamo Giornale Radio, anche Fabio da Monza che ci aspetta in linea, lo sentiamo tra pochissimo, a dopo. Si può fare cronache da un paese migliore. Quoi, qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables? Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, et ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Questi è Stromae, Papà Uté, un cantante 29enne belga che ha incantato al Festival di Sanremo. Questa è la vostra canzone, il vostro Si può fare. Questa volta la dedichiamo, perché l'ha scelta lui, a Giorgio De Luca, il nostro autore e redattore di Si può fare, perché tra l'altro oggi è il suo compleanno. Esatto, lo dice con questa tristezza, oggi è assente ma è vivo, diciamo, lotta con noi, insieme a noi. E comunque Stromae è un genio assoluto, ha cantato a Sanremo, io mi sono sbilanciato e ho twittato "Io amo Stromae", quindi sono... diciamo, molto sbilanciato. Aspetto una sua troppo risposta. Sbilanciato, forse. Sì, aspetto una sua risposta perché gliel'ho scritto proprio al suo Twitter, quindi speriamo che almeno io lo possa capire. Fa lo stesso, anche se non ci aggiorni su questa vicenda, fa lo stesso. No, però è importante, devo fidanzarmi. Ormai lavoro qui, faccio lo stagista qui, ma adesso devo anche fidanzarmi. Fa lo stesso, anche se non ci aggiorni su questo, voglio dire, stiamo tranquilli lo stesso. Allora, un cantante, lo diciamo così per onore della cronaca, che accosta l'hip hop, il soul, la musica elettrica, anche una vena cantautoriale che appunto sta facendo successo in tutta Europa. Continuate a segnalarci le vostre canzoni, il vostro si può fare per esempio sulla pagina Facebook, si può fare trattino Radio 24, ma anche su Twitter, dove volete, cari ascoltatori. Adesso riprendiamo con il numero verde 800 24 00 24 a sentire i vostri interventi. Cominciamo, l'avevamo annunciato, con Fabio da Monza. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Io intervenivo sul servizio che c'è stato pochi minuti fa, sì, su quella proposta del commerciante di Catania. Sì, di espropriare gli immobili pubblici, sì, e privati abbandonati, in degrado. Sì. Premesso che ero sveglio da un quarto d'ora, quindi magari non ho capito esattamente. Ma la proposta mi sembra totalmente assurda, nel senso che quello che è mancato nel servizio, sì, è i soldi, i quattrini con cui si vanno a recuperare tutti questi immobili, nel senso che i quartieri che sono degradati o abbandonati, come quelli di cui si parlava, sono abbandonati per una ragione. Ci saranno dei problemi di sicurezza, ci saranno dei problemi economici delle persone che le avevano, per cui non capisco proprio come si possa pensare, in un momento di crisi, non in un momento dove ci sono soldi da investire e quindi, sì, si va a recuperare anche quello che non funziona, utilizzare appunto dei soldi per andare a investire in attività economiche dove A, non ci sono i residenti, e B, il problema più grande che abbiamo in generale è quello dei consumatori, per cui in assenza di soldi trovo questa cosa non sostenibile. Fabio, ho capito qual è la sua obiezione, grazie per avercela detta, glielo spiego io qual è, dove si trovano i soldi si trovano in chi vuole aprire, inaugurare, insomma, far decollare un'attività commerciale, economica. Se gli si mette a disposizione un immobile abbandonato a costo zero, sicuramente, e ne abbiamo fatti di casi parecchi qua, si può fare. Per esempio, uno è lo spazio Grisù di Ferrara, eccezionale, un immobile della caserma dei Vigili del Fuoco dato gratuitamente a delle imprese, l'hanno ristrutturato a spese loro, adesso l'immobile non è più in condizioni di degrado, le attività commerciali hanno trovato una sede spendendo meno di quello che avrebbero dovuto spendere pagando un affitto o comprando la sede. È questo il circuito economico, anche capito? Perché va detto che non sempre gli immobili abbandonati sono in zone degradate, perché anche a Milano è strapieno di immobili che sono abbandonati, disabitati, e sono in zone stupende che tutti vorrebbero farci un locale o anche farci magari un'attività meno ludica. Però è quello che abbiamo presentato, quello del CSV di la Casa dei Volontari di Milano, che viene inaugurato proprio oggi in un quartiere normalissimo della città, era un immobile abbandonato. Fiorenzo da Udine, buongiorno. Da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno. Fiorenzo, buongiorno. Firenze, prego. Senta, io volevo parlare invece dei maiali, perché io sono diventato allevatore di maiali di Cinta Senese per caso, nel senso che io abito in campagna a Bolognano, vicino a dove è nato Renzi. Un allevatore non c'aveva più soldi, ha liberato da un giorno all'altro un centinaio di maiali per la collina. L'ha liberati per proprio così, allo stato brado? Allo stato brado, sì. Ah. E questi hanno fatto danni incredibile. Ma poi sono dei maiali particolarissimi, giusto? Quelli della Cinta Senese. Quelli del famoso quadro del Mondoverno, quelli con la cinta rosa. Certo, sono rari e buonissimi. Sono ottimi, ma sono anche... costano anche diversi soldi, per cui se lui li avesse venduti anziché abbandonarli così avrebbe fatto anche diversi soldi. Ma come mai li ha abbandonati? Perché questo era un po' fuori di testa, nessuno gli faceva più credito, perché ha fatto tantissimi. E lei si è impossessato di alcuni di questi maiali, ho capito bene? Lei si è appropriato di alcuni di questi maiali, no, ho capito bene? Sono hanno invaso tutta la collina, sì? E una scrofa con dei maialini si è stabilizzata nel mio terreno. A casa sua. È bellissima questa storia. Ha dovuto adottarli per forza. cioè è successa, è vera, è tutta, non è inventata. Ma certo, ma noi le crediamo, perché dovremmo non credere, voglio dire, no, sono le 9 del mattino di sabato, scusi, inventarsi una storia così sarebbe straordinario. Allora, però perché lei ci ha chiamato, Fiorenzo? Qual è la morale di questa storia? Che tante persone hanno ammazzato i maiali o l'hanno fatto fuori, il comune ha fatto l'ordinanza di abbatterli. Invece lei... Io ho cercato di fare le cose correttamente facendo denunce ai carabinieri di ritrovamento, denunce all'ASL di ritrovamento, eccetera, e sono cominciati guai, perché in Italia la burocrazia ammazza qualsiasi buona intenzione. Qualsiasi maiale? Non solo. Nel senso che le norme per tenere i maiali sono le stesse sia che uno ce n'abbia uno che ce n'abbia 50. Quindi lei è trovato ingarbugliato in una giungla di norme, allora, per avere una maialina. Ci vuole un registro di carico e scarico dei maiali, ci vuole il registro delle vaccinazioni dei maiali. Per fare le vaccinazioni dei maiali ci vuole la ricetta del veterinario abilitato. Basta. Vabbè, fino a qua mi sembra tutto corretto. No, nel senso che io ho dato la notizia prima su Peppa Pig, sul fatto che i ragazzini adesso come animale domestico chiedono spessissimo di avere un maiale, però volevo capire se... Si va incontro, vedi? A quello a cui si va incontro è in realtà una burocrazia, diciamo, come se uno avesse un allevamento. È una follia, Bisognerebbe abbattere tutto, eliminare tutto. Per chi ha un maiale o due, insomma, è chiaro, non può. Chi ha un maiale? Ma chi non ha un maiale in famiglia? Non è, sì, questo è vero. Ma no, parlavo di mio zio, mi scusi. No, ma le posso assicurare che sono animali simpaticissimi e pulitissimi. Ad esempio, i bisogni li fanno in luoghi lontani da dove mangiano. O ha una casa molto grande, oppure come fa se lo tiene in appartamento? In casa credo che sia proprio assolutamente vietato. Ci vuole il recinto, ci vogliono almeno 6 metri quadrati di terreno per poterli tenere. Quindi allevamento. Animali domestici no, non valgono. Aspetti, ma poi l'ASL fa il censimento di tutti quelli che hanno i maiali. Ogni 6 mesi viene a fare il prelievo del sangue per controllare se sono sani o no. Vabbè, questo mi sembra noi anche siamo giusto, contenti di tutti mi questi sembra controlli. Anche giusto. Il problema è che giustamente lei dice per voler fare una buona azione come quella di tenersi questi animali, insomma, è in corso in una burocrazia folle. Facciamo un appello formale per i maiali, la semplificazione. Il ministro Madia dovrebbe semplificare anche la questione dei maiali. Semplifichi i porci, Madia. O degli animali, tutti gli animali. Perché gli animali sono una parte importante poi della nostra vita, quindi forse non è una cosa così sciocca, stupida. Ero incuriosito perché, per esempio, cioè, evidentemente la notizia che ho dato io è incompleta per come l'ho data, perché se ci vuole un recinto di 6 metri per 4 mi sembra molto difficile che uno in città tenga un maiale. Evidentemente è più complicato, diciamo, di come l'ho letta io. 800 24 00 24, facciamo una breve pausa, traffico. Si può fare, si può fare, si può tenere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare a navigare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, riprendiamo ancora con qualche ascoltatore. 800 24 00 24, per esempio, che cosa ha reso più bella la vostra settimana? Per ora abbiamo avuto Danilo da Verona, non è chiaro se Fiorenzo invece da Firenze chiamasse con questa intenzione. Della buona notizia, della buona dici? Notizia, o se era più un racconto legato alla notizia che avevi dato tu, lo teniamo in sospeso. Entrambe le cose. Vediamo, entrambe in palio ci sono i biglietti per andare al cinema a vedere Un ragionevole dubbio. Ricordiamo anche i nostri Twitter, se volete interagire con noi anche attraverso i nostri Twitter. Il mio è @CarloGabardini e quello di Alessio Ale Maurizi, e poi c'è quello del programma Si può fare 24. Esatto. Gianluca da Roma, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Complimenti intanto per la trasmissione. Grazie. Io la mia buona notizia è che alla fine mi sono laureato tardi, perché facevo prima il gommista, poi ho deciso di intraprendere la vita di infermiere dopo aver fatto 3 anni di volontariato. Scusa Gianluca, questo è già un percorso che secondo me vale di essere la pena di essere sottolineato. Cioè, faceva il gommista, poi faceva il volontario, forse poi sulle ambulanze. Il volontario al 118, per 3 anni, gratis, facevo 100 km al giorno. E a quel punto ti sei messo a studiare per fare l'infermiere. Sì, là mi sono innamorato un po' del settore, molto innamorato, e niente, poi mi sono laureato presso il campus biomedico qui a Roma. E quando è venuto questo, quando c'è stata la laurea? Adesso, a marzo, mi sono laureato a marzo scorso. Beh, adesso, è passato un anno, siamo a febbraio. Lo so, però mentalmente ancora sono rimasto. Stai festeggiando? Sempre. Stai ancora festeggiando? Sì. Va bene, direi che entro l'anno prossimo, entro marzo prossimo puoi finire i festeggiamenti. Un anno mi sembra corretto di feste e birrette. Però, questa settimana che cosa è successo, Gianluca? Cosa è successo? Che purtroppo vabbè, la sanità sappiamo tutti come sta combinata, però io sono una persona molto positiva, quindi evito di piangermi addosso e quant'altro. E allora ho detto va bene, adesso siccome l'ultimo concorso erano 26 posti con 7.000 domande, scusate, io vorrei sfatare questo, diciamo, questo mito che la gente dice sempre: ah, ma gli infermieri servono. Sì, gli infermieri servono, ma non ci sono i soldi per pagarli, quindi diciamo. Beh, che... chi è che ha il dubbio che non servono? Però io non ho capito servono, Gianluca, però... Gianluca, non ho capito l'evento, diciamo, scatenato allora, di questi ultimi qual giorni. Qual è l'evento? Che ho sfruttato le mie conoscenze scientifiche per metterle a frutto in un'attività privata. E quindi ho aperto un negozio in questa settimana e sta già cominciando a dare i suoi frutti. Che negozio, se possiamo, Gianluca? Sì, è un negozio di materassi ortopedici, tutte linee, diciamo, elettromedicali, e le persone. Benissimo. Beh, è una storia bellissima. Cioè, non lo dico veramente, lo so che faccio sempre lo stupido, non lo dico veramente perché, cioè, parti, diciamo, da gommista, fai 3 anni di volontariato e sottolinei anche il fatto che non sei stato pagato, ovviamente perché hai volontariato per il 118, decidi di studiare, siccome ci sono solo 26 posti su 7.000 domande, dici io non riesco a entrare nella sanità e quindi mi metto in proprio, apro un negozio dove invece che gomme a questo punto vendo. Un applauso a Gianluca. Complimenti. Complimenti. Oggi sicuramente vince già così ad honorem. E chi lo sa, magari chiama qualcuno che ha preso 4 lauree invece e non ha festeggiato per 11 mesi. Giustamente tu gli chiedevi, ma qual è il momento scatenante? È che semplicemente che ha festeggiato per 11 mesi e oggi ha trovato la linea. Era laurea il motivo. Bella questa storia, vediamo poi appunto se ne arriveranno delle altre. 800 24 00 24, però insomma, visto che abbiamo messo in palio almeno 2 coppie di biglietti per il cinema, dobbiamo chiedere con chi ci va. Gianluca si candida seriamente a vincere. Adesso però invece entriamo, visto che si parla di scuola, il ministro dell'istruzione, neo ministro Giannini, ha detto rilanceremo, Renzi ha detto l'edilizia scolastica sarà il motore dello sviluppo quest'anno. Entriamo in una super scuola italiana. Ci serve un matematico per non dare i numeri, aggiungici un filosofo per pensieri effimeri, sommaci uno storico che dica com'è andata e un fisico quantistico che dia un'accelerata. Data una rata prepagata, quanto costa una telefonata alla fidanzata. Comincia con Vasco una splendida giornata e termina con Kante la notte stellata. Giocare col sapere fa provare piacere, può far superare barriere, ma occorre la parola che a sentirla fa paura. Tratteniamo il fiato, cultura. School rocks, la scuola spacca, tira sulle pagine, la musica attacca. School rocks, la scuola spacca e capisci anche H. È il tuo amico Frankie High Energy. Che salutiamo Frankie High Energy, bravissimo. Per introdurci musicalmente, appunto, come dicevamo, all'interno di una scuola. Parliamo dell'Istituto Comprensivo Bellusco e Mezzago in provincia di Monza e Brianza. Abbiamo convocato il dirigente scolastico Franco Maria Franci, buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori. Buongiorno. Perché la vostra è una scuola, un istituto comprensivo, quindi che comprende diverse scuole, che una ne fa e 100 ne pensa, anzi 100 ne fa e 1000 ne pensa. Allora io leggo così tra le iniziative, per far capire quanto la scuola è in alcuni casi in fermento positivo, senza prima ancora che arrivino le promesse dei ministri, gli interventi dei governi. Allora, voi avete l'iniziativa Dritti più sani e più belli per fare attività, addirittura ginnastica all'interno dell'orario scolastico per evitare di ingobbirci. Poi avete un leggio di legno che i ragazzi si montano in kit proprio per avere una postura più corretta, quindi una grande attenzione anche all'aspetto fisico dei ragazzi, preside. Certo. Come vi è venuto in mente intanto di fare questa, perché questa del leggio è straordinaria. Lo voglio anch'io il leggio. Vabbè, glielo possiamo procurare. Molto volentieri. Come è venuta? È venuta dalla, come dire, sovrapposizione di più idee. Sì. La prima idea è quella di coinvolgere i ragazzi, responsabilizzarli per potergli permettere di crescere meglio, e poi la possibilità di sfruttare tutto ciò che il territorio ci offre. perché ad esempio questa attività è nata dalla proposta di collaborazione di una fondazione che opera soprattutto sugli anziani, sì, che aveva a disposizione degli fisioterapisti, e allora ci hanno proposto di fare uno screening della colonna vertebrale dei ragazzi, e quindi abbiamo sottoposto tutti i ragazzi, le ragazze di seconda media, i ragazzi di terza media a questo screening. E com'è andata? Però, come sono le schiene dei ragazzi? Tutte curve. Un po' storte. Ah, però, no, più che storte, sì. No, più che storte sono rigidi. Scusi, allora, ma sì, tra le cose che fate, cioè, veramente fate ginnastica, sì, due break di 5 minuti obbligatori ogni quanto? Ogni giorno. All'interno? Tra le 9.55 e le 10, sì? Dall'1 all'1.05, in tutte le classi della scuola media si fa una specie di ginnastica. Attivano sulla LIM una delle quattro routine con gli esercizi filmati dei loro ragazzi, dei loro compagni, e fanno ginnastica in mezzo ai banchi. 5 minuti così per sgranchirsi, perché poi si sa, i ragazzi hanno bisogno di sgranchirsi sempre. Ma nel senso che fanno partire un video che vedono tutti in tutte le classi? Sì, allora, ogni classe ha il proprio LIM, che ci siamo cooperati con le varie attività che abbiamo fatto. E su questa LIM sono premontate quattro routine, sono dei filmati di 4 minuti, sì, e 48 secondi, che fanno vedere gli esercizi di quella routine e che vengono poi ripetuti, sì, da noi. Bravi. Con i ragazzi. Senta, invece l'altra cosa, questa delle GIO, cioè c'è un falegname della zona che avete coinvolto, un artigiano bravo evidentemente, sì, avete, c'è un kit e i ragazzi se lo montano da soli, com'è? Sì, ancora stiamo studiando. Ah, ecco, questo lo stiamo studiando. Abbiamo sperimentati in PO4. Sì. E adesso stiamo cercando di uscire con un modello semplice, sì, e a basso costo, in modo che questo artigiano ci possa fornire il materiale pretagliato, eccetera, e poi i ragazzini ce lo possano montare. Lo possono montare a me, e personalizzare. Una delle cose che mi è sembrata più interessante è quella del risparmio energetico, cioè avete responsabilizzato, sì, dei ragazzini dicendogli misurate la temperatura sì, costantemente, in modo che se anche solo di un grado più del minimo necessario, che quanto deve essere? Tra i 19 e i 20. Se c'è troppo calore abbassiamo i termosifoni, e in questo modo avete risparmiato un sacco di soldi. Quanti? Sì. Allora, l'anno scorso su 2 mesi e mezzo abbiamo risparmiato 1780 euro, equivalenti a 3720 kg di anidride carbonica non immessi nella... Complimenti! Che poi avete chiesto al comune in qualche modo di riconoscervi? No, non abbiamo chiesto, sì, è un accordo preventivo. Un accordo, perché sì, tutto è nato da un discorso col sindaco Invernizzi, sì, che è molto attento alla scuola, sì, parlando del più del meno, diceva, si lamentava del fatto di non poter darci dei finanziamenti che io stavo richiedendo perché le spese erano alte. Allora abbiamo cominciato a pensare come risparmiare, e da lì è venuto l'idea di risparmiare sul gas metano, e l'accordo era che qualsiasi cifra risparmiata, risparmiato, sì, sarebbe stata girata alla scuola per acquisto di materiale didattico. Senta, voi che siete una scuola insomma brillante da questo punto di vista, perché poi ci sono altre iniziative, insomma le aste benefiche, le merende biologiche, insomma ne fate tante cercando di spendere poco, anzi addirittura di risparmiare, però di valorizzare proprio le risorse dei ragazzi, degli insegnanti, le idee del territorio. Mi dice, per esempio, sull'edilizia scolastica, voi come siete messi? Allora, diciamo che siamo messi con una costruzione degli anni 70, sì, che nei tempi, nel periodo è stata di via via adeguata. Per esempio questo delle termovalvole nel riscaldamento è stata un'innovazione di qualche anno fa. Tutto sommato andiamo bene. Ve la cavate. Però, fuga, insomma, eccetera. Questo piano per l'edilizia è importante, perché sappiamo ci sono dei dati incredibili. Sì. Insomma, voi magari siete una scuola un pochino più fortunata, ce ne sono altre più vecchie o più sfortunate, certo, che sono in brutte condizioni. È un punto, sì, importante questo per ripartire, molto, no? Lei cosa ne dice? Io dico che è molto importante avere i finanziamenti, ma soprattutto sarebbe molto importante razionalizzare le modalità, perché qui abbiamo diversi enti che hanno responsabilità e compiti diversi che si sovrappongono. per cui per esempio il responsabile della sicurezza è il preside, ma il preside non può gestire i soldi, non ha la responsabilità dei locali, perché i locali sono dell'amministrazione comunale o della provinciale per le scuole superiori, e quindi poi ci sono un po'... C'è il solito balletto italiano delle responsabilità dei ruoli. Allora, la notizia è che il governo starebbe lavorando a un tavolo, detta così fa venire i brividi, ma insomma, solito tavolo, ennesimo tavolo, però per semplificare tutto questo, un team di lavoro ad hoc a Palazzo Chigi, direttamente sotto la presidenza del Consiglio, per snellire tutto questo. È una scommessa. Renzi ci ha puntato molto, secondo me, se fallisce su questa cosa qua, preside, poi noi fra qualche mese ci risentiamo per avere il suo punto di vista, quello di una scuola che è già brillante prima ancora degli interventi del governo. Ecco, se fallisce qua Renzi, secondo me già fallisce su tutta la linea. Staremo a vedere. Ci vuole indicare però una priorità per voi scuole adesso, che vuole dire così al ministro Giannini e a Renzi, così in 30 secondi. Ma guarda, dal mio punto di vista, entrare in quella che è la realtà delle scuole dei paesi più civilizzati, quindi un'autonomia reale, non quella che abbiamo ora, e quindi la possibilità di gestire anche il personale e i soldi. Se non si comincia a scegliere il personale, va penso bene, che sarà difficile andare avanti. L'autonomia. Grazie mille, grazie mille. Grazie a voi. Al preside, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Bellusco e Mezzago di Monza e Brianza, che come avete sentito è una scuola che insomma non aspetta gli annunci e gli interventi e fanno già delle cose importanti. Consegnano anche la merenda, ho visto delle cose incredibili, sì, con la pizza, le torte, fanno fare la merenda biologica a 50 centesimi raccolgono fondi in tutti i modi. Qua no, qua a Radio 24 non vedo passare delle gran pizze a 50 centesimi. No, miseria, non siamo all'altezza della scuola qua. No, e abbiamo anche degli orari vagamente peggiori, nel senso che tocca venire qua anche un po' prima della scuola. Io a scuola entravo più comodo di qua, che qua si salta un'ora e diventava un pasticcio. Si stava meglio quando si stava peggio. Facciamo un ascoltatore, lo facciamo prima di andare in pausa. Sentiamo chi abbiamo in linea. Mario da Roma, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Prego, Mario. Pronto? Sì, Mario, la sentiamo, tocca a lei. Sì, volevo dire che a proposito dell'edilizia scolastica, sì, 2 anni fa, dopo un mio intervento, io sono il presidente dei presidi romani a Ballarò, la stampa fece un'inchiesta e venne fuori che solamente nella città di Roma c'erano 200 appartamenti all'interno delle scuole occupati abusivamente da bidelli andati in pensione 15-20 anni prima, oppure dai loro eredi che magari poi si affittavano la casa di proprietà. E un'ottantina erano della provincia di Roma. Nonostante appunto l'inchiesta fatta dalla stampa, le denunce, sì, io ho scritto anche al sindaco, eccetera, nulla si è mosso. Cioè, si parla di edilizia scolastica, giustamente. Io sottoscrivo tutte le parole che ha detto il bravissimo, sì, preside che mi ha preceduto, ma l'ente locale che è proprietario, cioè il comune proprietario di scuole materne, elementari e medie, la provincia proprietaria delle scuole superiori, nel centro-sud hanno centinaia, probabilmente ancora di più, di appartamenti che non riescono a liberare. Mi è stato detto anche a Roma che non si riesce a risolvere questa situazione. Ma è possibile che se troviamo un ragazzino che per caso, facendo una cosa illegale, va ad aprire un'automobile per rubare un CD, viene arrestato, e tolleriamo invece di avere centinaia di appartamenti dello Stato che vengono abusivamente occupati a danno della comunità scolastica? Ecco, questa è una delle tante cose che secondo me il governo Renzi dovrebbe cominciare a prendere in considerazione. Grazie per questa segnalazione. È difficile valutare, perché bisognerebbe capire questo fenomeno di cui lei parla quanto incide poi sul discorso generale di tutte quante sono le scuole italiane, però certo non hanno tutti i torti. No, ma io non lo sapevo, cioè i bidelli che si ricavano un appartamento all'interno di una scuola. Ci saranno degli accordi, io credo che ci siano anche degli accordi, probabilmente magari che poi si sono trascinati per le lunghe, non lo so, però è una realtà strana quella che ci segnalava Mario da Roma. Probabilmente sono le uniche parti, diciamo, più ristrutturate delle scuole, perché il bidello poi ci tiene, magari mette le tendine anche. Sì, chiedo in regia, possiamo fare un altro ascoltatore veloce e poi andare in pausa? Ce la facciamo, Beppe da Novara, veloce. Prego. Pronto? Sì, pronto. Tocca a lei. Sono Beppe, ciao. Sì. Io volevo portare, intanto complimenti per l'entusiasmo, volevo portare la mia esperienza, la nostra esperienza come scuola di circo. Noi a Novara abbiamo aperto da circa 4 anni noi quattro soci, tutti proveniamo da un'esperienza artistica, abbiamo un ginnasta, un acrobata, un giocoliere e il sottoscritto, sì. E abbiamo aperto questa scuola di circo utilizzando i locali dismessi della società che fa la raccolta di rifiuti del comune di Novara. E abbiamo recuperato e riutilizzato gli spazi, e questa attività chiaramente ci ha permesso di avviare una sede di laboratorio. Quindi avete fatto un accordo con questa azienda pubblica? Contratto d'affitto, sì. Abbiamo preso i locali e un affitto, diciamo, un affitto pubblico, cioè un affitto con una scrittura abbordabile, voglio dire, dal punto di vista economico, visto che erano locali dismessi. Diciamo che diciamo accettabile per i costi che abbiamo, per sì. Gli introiti che abbiamo. Quindi, ma è dentro Novara o fuori Novara? È dentro Novara, proprio in città. Beh, bellissimo. E visto anche il numero di allievi che abbiamo, abbiamo chiesto sempre a questa società, sì. Di concederci altri spazi dismessi che ha sempre nell'area, perché noi vorremmo realizzare questa residenza creativa. Quanti allievi avete? Ad oggi tra i 6 e i 30 anni sono circa 250. Porca miseria. Cavolo, che super scuola. Bene. Il clown di Novara, direi. Grazie Beppe. Grazie mille. Grazie. Anche lui si candida con questa notizia qua. E volevo anche ricordare che oggi, oltre al nostro Giorgio De Luca che compie gli anni, è anche il compleanno di Justin Bieber. Adesso voglio dire che perlomeno sì, conta tanto dire quanto una il nostro cosa che De Luca. Non si può dire. Ah, non si può dire. Sti quindi cavoli, direi che vabbè. Sti cavoli non si può sentire, però. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Fino alla fine, questa qua. Start Me Up cantava, ma canta ancora, perché fanno ancora i concerti Rolling Stones, Mick Jagger. Certo. E noi parliamo con il mago delle start-up, il mago italiano forse delle start-up. Quando è andato a Treviso qualche giorno fa Renzi per la sua prima trasferta alla Presidente del Consiglio, oltre che nella scuola media, è andato anche a trovare lui, Riccardo Donadon. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Il numero uno di H-Farm, una, cos'è, un incubatore di start-up, un acceleratore. Un acceleratore di idee, di aziende. Come vi definite voi, intanto? Ma ci definiamo proprio così. Siamo un acceleratore privato che da 9 anni investe sulle idee dei giovani e li aiuta a partire, li sostiene, li fa iniziare la loro attività e soprattutto li indirizza, cerca di dirgli dove bisogna investire, dove bisogna focalizzare l'attenzione e su cosa mettere tutta l'energia che hanno. Cioè, intanto per dire qualche numero, che poi Renzi era venuto da lei già anche prima durante il suo viaggio in Italia col camper, quindi diciamo vi tiene d'occhio. È una tappa fissa. È una tappa fissa. Adesso poi cerchiamo di capire anche un po' cosa vi siete detti con Renzi intanto. Allora, Matteo è estremamente consapevole di quello che sta succedendo, cioè che c'è un cambiamento molto forte in questo momento nella società, nell'economia, che è indotto anche dal cambio dei paradigmi, per cui la tecnologia, che ormai si è fusa completamente con i comportamenti sociali delle persone, sta ridisegnando un po' il rapporto dei consumatori, il rapporto nell'utilizzo degli strumenti che permettono di accedere alle informazioni, per cui è molto importante cercare di indirizzare tutta questa energia dei giovani verso queste cose che possono in qualche modo aiutare le imprese che abbiamo già in Italia. Poi però, riusciamo a unire. Sì. Queste due forze è qualcosa di molto importante. Poi però con quello che fate siete la dimostrazione che insomma si può fare anche senza bisogno di altri annunci, di altri interventi del governo, che magari ben vengano, anzi lo sappiamo sicuramente, meno burocrazia, meno tasse, esatto. Qualunque imprenditore sogna e vuole questo, però insomma voi ci state riuscendo. Quante imprese avete fatto decollare in questi anni? Noi in questi 9 anni abbiamo investito 15 milioni, sono tutti soldi privati, ho avuto la fortuna di coagulare una serie di soci tipo Renzo Rosso della Diesel, piuttosto che altre persone importanti che hanno creduto su questo progetto. Abbiamo investito questi soldi, abbiamo fatto partire 54 nuove società e oggi ci sono circa 350 giovani e stiamo investendo, ogni anno vediamo circa 1000 proposte, ne selezioniamo 10 per semestre e investiamo su queste iniziative cercando di portarle verso il mercato, cercando di accelerarle verso il mercato. Ma sono iniziative di tutti i tipi o molto legate, diciamo, a web e tecnologia? Allora, sono iniziative che hanno come fattore comune internet, la tecnologia, il sapere interpretare questi nuovi strumenti. Però quello che stiamo facendo in modo molto attento è cercare di fare in modo che queste innovazioni che i ragazzi ci raccontano si saldino con quelle che sono le esigenze delle industrie che abbiamo in Italia, quindi delle società che in Italia o dei filoni che in Italia possono funzionare. Perché siamo convinti che se riusciamo, io non credo che in Italia riusciremo mai a far nascere un Facebook o un WhatsApp, quindi certo. È inutile che ci sforziamo troppo di raggiungere quell'obiettivo, magari qualcuno un giorno ci riuscirà. Quindi cose più legate a cose che già abbiamo, quindi che sia la moda, che sia il cibo, che sia il turismo, esatto. Che sia l'arte, questo? Esatto, delle innovazioni che possono in qualche modo aiutare e dare energia a delle cose che già oggi in Italia funzionano. Tipo questo weekend noi abbiamo qui una manifestazione che facciamo ogni mese, che si chiamano, sono degli hackathon. Questo mese qui è un hackathon sul mondo del vino che facciamo in collaborazione con Vinitaly. Abbiamo qui 4 etichette questa mattina, ci sono circa 600 giovani che sono arrivati tra ieri sera e questa mattina presto, e loro si sfideranno per 24 ore a riuscire a risolvere i need, le esigenze di queste 4 aziende che tra qualche minuto adesso gliele raccontano e gli dicono che cosa loro vorrebbero riuscire a fare con internet. Quindi, ma cosa sono gli hackathon? Mi scusi, io sono lo stupido del gruppo e quindi non capisco tutto. Ma gli hackathon fondamentalmente sono delle maratone dove di solito i ragazzi che vivono in questo mondo si ritrovano per mostrare i muscoli, per far vedere che sono bravi a programmare. Certo, quindi, il fatto anche di mettere, come dire, una scadenza temporale ma anche un periodo, insomma, di ore lungo, limitato, crea questo, come dire, questa voglia di queste energie che si accumulano, questa competizione per cui si pensa di poterne tirare fuori qualcosa di più che non facendo le solite riunioni. Quindi, insomma, applicate ai settori dove l'Italia ha già delle eccellenze, tipo il vino. Questa mi sembra una chiara dichiarazione di intenti, però so che nel colloquio con Renzi, o comunque già da prima, lei gli ha suggerito di creare delle zone senza tasse, delle zone che ci sono già in America, per esempio, senza burocrazia e senza tasse, per almeno 5 anni. È vero, lei ha suggerito questo a Renzi? Sì, come te abbiamo parlato di tante cose. Una delle cose che io gli ho detto è, guarda, secondo me negli altri paesi nel mondo ci sono delle zone che hanno avuto delle agevolazioni, ma anche qui in Italia in passato ci sono state e c'è proprio anche una legislazione che dice che esistono le SEZ, le specific economic zone, dove si mette un attimo in stand by il sistema burocratico, fiscale, tutto quanto, e si permette di far correre, far accelerare almeno per qualche anno settore, in modo che possa generare quella forza propulsiva che è necessaria. Può essere. Ma secondo lei, Donadon, Renzi è stato recettivo su questo? Cioè lei si aspetta che qualcosa accada? Io credo di sì, lui è un ragazzo super consapevole, è super convinto che queste cose sono importanti. Ieri una conferma l'ha data bloccando determinati tipi di provvedimenti che avrebbero penalizzato questo mondo. La web tax. Esatto. E tra l'altro lui l'ha comunicato sempre, visto che stiamo parlando di tasse, Renzi e internet, l'ha comunicato via Twitter perché Roberto Scano gli ha chiesto, concluso Consiglio dei Ministri alle 13.45, tra poco sapremo se Matteo Renzi ha sospeso, rimosso o mantenuto la web tax, e Matteo Renzi in tempo reale ha risposto rimosso. Ne riparleremo in un quadro di normativa europea. Senta, Donadon, che è giustissimo che sia così. Infatti le volevamo chiedere anche su... Quanto tempo gli dà Renzi per esempio per questa idea sulla zona senza tasse, senza burocrazia, cioè in un anno? Io gli ho dato varie idee. Dopo lui è molto lucido, ha le idee chiarissime, sì, per cui non ha neanche bisogno di tanti suggerimenti. La cosa molto positiva che ha fatto è tenersi la delega lui per il digitale, che è una cosa secondo me giustissima, perché deve essere proprio il Presidente del Consiglio che lavora. Questo però lo responsabilizza, per cui se mettiamo che se in un anno non abbiamo notizia di queste zone senza tasse, senza burocrazia per le nuove start-up digitali, beh, insomma, non sarebbe una bella notizia. Io credo che l'importante è che lui faccia qualcosa. Dopo, se fa questo o fa un'altra cosa che aiuta il nostro mondo, è comunque molto importante. Io credo che la cosa più importante che lui possa fare oggi è fare in modo che l'Italia diventi cosciente dell'importanza di queste cose. Perché se il sistema, tutto l'ecosistema, non si rende conto che una soluzione anche per il problema della disoccupazione dei giovani in questo momento è responsabilizzarli, dargli fiducia e fare in modo che loro possano in qualche modo generare quell'energia che si può inserire sulle aziende tradizionali per dargli di nuovo quel vigore che avevano in passato, l'Italia non riparte. Per cui questa cosa qui è importantissima, e l'Italia, le industrie hanno assolutamente bisogno dei giovani, perché loro sono nativamente digitali, hanno capito come funziona questo mondo e possono portare un contributo altissimo oggi. Va bene, grazie. Concordo in pieno. Complimenti. Complimenti. Non bevete troppo questa mattina, visto che ci sono le aziende del vino. Ah, vabbè, invece bisogna assaggiare i prodotti. Bevete. D'accordo. In bocca al lupo. Grazie. A Riccardo Donadon, grazie. 10 grazie fan. Mille. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Categoria No Money, come cantano i Kings of Leon, stasera si può andare a dormire gratis in uno dei bed and breakfast che aderiscono all'iniziativa Bed and Breakfast Day, ma naturalmente bisogna soggiornare almeno due notti, una bisogna pagarla, perché sennò non è che si può farla franca. Così ne parliamo con la responsabile comunicazione di bedandbreakfast.it, Lucia Nifosi, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Gli ascoltatori, buongiorno a voi. Anche se siamo agli sgoccioli, perché bisogna forse già avere prenotato per stasera, ci spiega come funziona questa bella iniziativa di rilancio del mondo dei bed and breakfast? Certamente, probabilmente c'è ancora la possibilità di poter usufruire di questa notte gratis collegandosi al sito bbday.it. Funziona come stavi dicendo tu, cioè a patto di prenotare una notte precedente o successiva al 1 marzo, i gestori dei bed and breakfast aderenti alla giornata nazionale del B&B italiano, il BB Day, offriranno la notte del 1 marzo gratis, naturalmente per chi prenota, ma anche per la gente che sta viaggiando insieme a questa persona. Quindi un pernottamento e una colazione a patto di prenotarne almeno un'altra. Una bella occasione. Quindi sì, c'è lo sconto del 50%, diciamo. C'è lo sconto del 50%, tra l'altro il BB Day, che è un evento che ricorre ogni anno, questa è già l'8ª edizione, quest'anno coincide con il periodo di carnevale, per cui l'occasione è ancora più ghiotta per chi volesse anche prolungare un fine settimana, magari fino al martedì grasso, potendo comunque usufruire della notte del 1 marzo gratis, e quindi è un ottimo modo per scoprire l'Italia e per scoprire anche questa dimensione dell'ospitalità. Ma se uno ha solamente un giorno di vacanza solo oggi, come fa? Va in un bed and breakfast, la paga intera o comunque gli fate uno sconto oggi? Ci sta provando Gabardini. Non te lo so dire. No, perché io ho questo problema, siccome diluvia tantissimo a Milano, se troviamo un bed and breakfast qua in via Monterosa, io invece che tornare a casa andrei volentieri a dormire qui, però solo stanotte, non è che posso dormire tutta la settimana in via Monterosa. No, dormi domani e questa notte dormi gratis. Va bene. Perché? Va bene. Funziona così. Quanti sono i bed and breakfast oggi in Italia? Ce l'avete una cifra? Perché sta crescendo. Sì, abbiamo una cifra aggiornata dall'ultimo sondaggio Istat, sono oltre 25.000, per cui tantissimi rispetto agli albori del B&B. Una decina d'anni fa non si sospettava un successo di questa formula ricettiva extra alberghiera, e sono più di 1.500 quelli che partecipano al BB Day. Tra l'altro c'è stato anche molto successo, ha avuto